I fantasmi del passato. Leggo nella Bibbia in Filemone capitolo 1, versetti 10, 12 e 13. Ti prego per mio figlio, che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo. Te lo rimando, lui che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. A volte capita di sentire utilizzare l'espressione idiomatica affrontare i fantasmi del passato, per indicare la necessità di liberarci da cose del nostro passato che continuano ad influenzare il nostro presente. Leggendo l'epistola a Filemone, stavo pensando che Onesimo aveva certamente un problema in sospeso, che anche dopo la sua conversione non lo lasciava tranquillo. Probabilmente Onesimo era uno schiavo fuggito a Roma dopo aver recato del danno, forse un furto, al suo padrone Filemone. La legge romana prevedeva punizioni severe per gli schiavi che fuggivano. A Roma Onesimo aveva conosciuto l'apostolo Paolo, mentre quest'ultimo era imprigionato e si era convertito. Credo che soprattutto dopo la sua conversione Onesimo avrà pensato più volte ai suoi conti in sospeso e ne aveva parlato all'apostolo Paolo. Tra Paolo e Onesimo si era creato un legame molto forte, come tra un padre e un figlio, e Paolo avrebbe voluto tenerlo con sé, eppure chiese ad Onesimo di ritornare a Colosse dal suo padrone Filemone. Perché Paolo agì in questo modo? Perché rinunciò a tenere con sé Onesimo? Perché l'incontro con Filemone sarebbe stato per Onesimo una grande opportunità di crescita? Dopo la sua conversione, Onesimo aveva già dato prova della sua fede, servendo Paolo mentre quest'ultimo era prigioniero romano, ma Paolo gli stava offrendo la possibilità di liberarsi dei propri fantasmi una volta per tutte, in modo da poter essere veramente libero. Non so come abbia reagito Onesimo quando Paolo gli chiese di ritornare da Filemone con questa epistola in mano, ma sono sicuro che se mi fossi trovato al suo posto, avrei esitato non poco. C'era un conto aperto nella vita di Onesimo e per poter crescere nella fede era necessario che fosse saldato. Onesimo doveva assumersi la responsabilità del suo gesto, tornando da Filemone e mettendosi a disposizione di quest'ultimo, pronto a pagare i propri debiti. Non sarebbe stata una cosa tanto facile. Infatti, chi poteva garantirgli che il suo padrone non lo avrebbe punito come meritava? Chi poteva garantirgli che non avrebbe perso ancora la propria libertà? Questa lettera è giunta fino a noi, a testimonianza del fatto che Onesimo accettò la sfida che gli era stata proposta, costretto dalla sua nuova fede in Cristo. Onesimo era pronto a rinunciare anche alla libertà, pur di essere approvato da Cristo, e mentre viaggiava per andare da Filemone, magari ancora con qualche timore, possiamo essere certi che avesse già fatto passi da gigante nella fede. Dopo un lungo viaggio, Onesimo avrebbe incontrato Filemone, che avrebbe affrontato una sfida altrettanto impegnativa, e sarebbero cresciuti insieme. Ciò che Paolo ha insegnato ad Onesimo, rimandandolo da Filemone con questa lettera in mano, è utile anche per noi. Se abbiamo delle pendenze con qualcuno, se abbiamo problemi con la giustizia o abbiamo fatto dei torti, il modo migliore per testimoniare della nostra fede è quello di assumerci le nostre responsabilità. Come Onesimo, dobbiamo trovare il coraggio di affrontare il nostro Filemone. Non preoccupiamoci troppo delle conseguenze. Ci penserà Dio a predisporre le cose in modo che il nostro Filemone possa essere ben disposto nei nostri confronti. Comunque vadano le cose, ne usciremo più maturi e ci saremo liberati dai nostri fantasmi del passato una volta per tutte.